La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Alla ricerca dell'isola di dove non si sa. Una fiaba di Gaetano Marino. Tra le valli e le colline della Martilla, un'antica contea dell'isola di Hyknos, terra sacra baciata dal sole, si trova il villaggio di Santuengiu. Nelle sue fertili campagne nascono i preziosi fiori dello zafferano, una pianta conosciuta come spezia magica e dal profumo inconfondibile. Dicono che con le sue proprietà scacci via il malumore e i brutti pensieri. I suoi abitanti appartengono a una delle più importanti borgate dell'isola, dove, da sempre, vivono, ben custodite nelle capanne di paglia e terra fangosa, infinite storie di sogni. Ebbene, proprio oggi, mentre sfogliavo un vecchio libro di fiabe nella biblioteca di Parole di Storie, d'improvviso è scivolato via dalle pagine ingiallite un gruppetto di fogli. Sono questi che ora ho in mano. Ho pensato che si fossero staccati a causa dell'usura. Li ho subito raccolti, ma nel tentativo di rimetterli tra le pagine del libro, mi sono reso conto che questi fogli sono scritti a mano, in bella calligrafia, d'inchiostro nero. Ho anche cercato sulla prima pagina se ci fosse un titolo. Niente. Questa storia non ha un titolo. Però comincia come di solito cominciano quasi tutte le storie fantastiche. C'era una volta un giovane uomo che trotterellava in groppa al suo fedele asinello Ciucco Molente. Egli andava lungo un sentiero che stava immerso tra i campi dello zafferano in fiore. Il giovane uomo si chiamava Crisponzio. Come tutti i giorni, egli rientrava dalle risaie dei Chicchi di Stelle, dove lavorava come bracciante contastorie. Tornava verso la sua isola di dove non si sa. Giunto che fu nei dintorni del villaggio di Santuengiu, dopo aver superato la fontana dei due punti, all'incrocio tra virgole, virgolette e accenti circonflessi, il giovane Crisponzio scoprì, non senza stupore, che la sua isola di dove non si sa, ahimè, quel giorno proprio, non ci stava. Si sentiva solo scorrere le acque del Nero Pintau, il grande fiume d'inchiostro nero. Sopra di esso si stendeva un cielo immenso di carta increspata, ma dell'isola di dove non si sa, acciderbolina o acciderbolà, non c'era traccia. Non si vedeva nemmeno una piccola sillaba o un punto esclamativo, un punto e virgola, un sospiro di tre punti, o magari un minuscolo e confuso punto di domanda. Niente, niente, nessuna traccia. Brutto guaio, anzi, bruttissimo guaio, perché era in quell'isola fertile che spuntavano e crescevano le magiche avventure del contastorie Crisponzio. Lui le raccoglieva e poi le raccontava agli uomini, specie i sognatori, piccoli o grandi che fossero. Aspetta e aspetta, spera e rispera, ma dal nero Pintau, l'isola di dove non si sa, non veniva fuori. Strano davvero. Per tutti i contastorie, sin da quando gli uomini hanno cominciato a sognare e desiderare, l'isola di dove non si sa è sempre emersa, puntuale ad ogni crepuscolo che segua il tramonto. Anche per Crisponzio, quel giorno il tramonto non tardò a farsi notte, ma dal grande fiume nero Pintau non emerse nemmeno un pugnetto di sabbia. Crisponzio pensò che probabilmente dovesse aver sbagliato sentiero, forse per un incrocio di congiuntivi fuori posto? Che di questi tempi, ahimè, accadono frequenti e confusi, persino sconosciuti, o tra punti fermi e asterischi segnalatori di pericoli, o per i lavori in corso di qualche poeta in attesa di ispirazione. Il contastorie guardò il cielo buio, dove ci stava il tocco di un quarto di luna a rischiarare le ombre della valle. Poi si guardò intorno e nel semibuio della notte vide, di lontano, il tremolio di alcune luci che illuminavano una casetta. Fu a quel punto che il povero Crisponzio, stanco e affamato, si diresse verso quella casetta, sperando di trovarvi ospitalità e riposo per la notte. Giunto che fu, il contastorie scese dal suo ciucco molente e sbatacchiò il batacchio sulla porta. Dall'altra parte si udì il miagolio di un gatto e subito la porta si aprì con un lieve e melodico cigolio. Apparve un uomo dai lunghi baffi, che probabilmente doveva essere il padrone di casa. Quell'uomo vestiva in abito bianco di garza elegantissimo, con i bordi d'arancio luccicoso. Aveva una camicia smeraldo tempestata di bottoni di madreperla e una farfallona argentina ben sistemata sul collo inamidato della camicia. Una fila di bottoni blu cobalto stavano ben stipati nelle asole rosate della giacca. All'occhiello spiccava un grande fiore di zafferano. Infine, fatto assai curioso, non aveva scarpe quell'uomo né pantofole o babbucce. L'uomo dai lunghi baffi accolse il giovane avventore con un grande sorriso e domandò: «Benvenuto!» «Buonasera, gentile signore!» «Buonasera a voi, giovane uomo! A cosa debbo il piacere della vostra visita?» «Oh, gentile signore, mi chiamo Crisponzio e sono un contastorie. Vi prego di perdonare il mio disturbo in quest'ora della notte, ma, ahimè, debbo aver smarito la via di casa. Ho appena attraversato i campi dello zafferano in fiore, ma dal grande fiume l'inchiostro nero Pintau, non è emersa la mia isola di dove non si sa. e adesso sono molto stanco. Posso chiedervi, signore, se fosse possibile avere un riparo per questa notte?» L'uomo dai lunghi baffi sorrise e invitò il contastorie a lasciare ciucco molente accanto alla mangiatoia e fece accomodare Crisponzio in una stanza riscaldata dal fuoco di un grande camino. Gli offrì del cibo e per concludere il pasto, ovviamente, fu portato a tavola il dolce alla meringa con panna, zabaione, cioccolato e mirtilli. Non poteva mancare. Terminata la cena, l'uomo dai lunghi baffi e il giovane contastorie si levarono da tavola per andare a sedere su due comodissime poltrone poste davanti al camino. Gustarono, sorseggiando lentamente, un buon liquore di bacche di gelso. Non ci furono domande e ovviamente non ci fu bisogno di risposte. Trascorso ancora qualche minuto di silenzio, l'uomo dai lunghi baffi chiese all'ospite se avesse qualche storia fantastica da raccontare per la buona notte, ma Crisponzio rispose con imbarazzo che non ne ricordava. L'uomo dai lunghi baffi stupì e disse: «È molto strano, caro amico, che non abbiate una storia da raccontare per la buona notte. Voi siete un contastorie, a quanto mi dite, e credevo che ne aveste raccolte abbastanza nelle vostre risaie di chicchi di stelle.» «Oh, ma certo, signore, il raccolto quest'anno è stato abbondante, ma purtroppo devo aver smarrito i ricordi insieme alla mia isola di dove non si sa. E come voi sicuramente saprete, un contastorie senza la sua isola non sa più come scrivere né dove raccogliere le storie da raccontare.» L'uomo dai lunghi baffi osservò con affetto Crisponzio e poi disse: «Oh, che peccato! Mi dispiace per voi, amico mio. Sono sicuro che prima o poi ritroverete la vostra isola di dove non si sa. Ma vedo che siete stanco. Dunque, se lo desiderate, vi accompagno alla camera.» «Oh, vi ringrazio, signore. Ho veramente un gran bisogno di riposare.» Il padrone della casa condusse il contastorie in una camera dove si trovava un letto di crine. Dopo un po', Crisponzio si sdraiò sul letto, ma, come spesso capita, tanta era la stanchezza che non riuscì subito a prendere sonno. Allora incrociò le mani sotto la nuca e, assalito dai pensieri, rimase ad osservare il soffitto. Gli occhi vagavano insieme ai pensieri, chiedendosi il perché egli non fosse riuscito a trovare la sua isola, ma fu inutile avere risposta. Dopo qualche tempo, mentre le palpebre lo costringevano al sonno, il contastorie scoprì qualcosa che stava sul soffitto. Erano ganci, una fila di ganci che sorreggevano dei grossi e odorosi prosciutti. Ma, infine, la stanchezza fu davvero tanta che il contastorie si addormentò. Trascorse qualche tempo. Da fuori non si sentirono più gli animali della notte e la casa rimase avvolta dal silenzio. D'improvviso nella stanza ci fu un rumore, lento, lento, di chiavistello. La porta si aprì con un leggero cigolio. Crisponzio sollevò le palpebre e vide entrare due uomini, scuri scuri, diretti verso il centro della stanza. Con circospezione staccarono dai ganci i grossi prosciutti, li raccolsero cautamente in un sacco di juta e se li portarono via. Non s'erano accorti però della presenza del contastorie, che stava acquattato nel suo letto mentre teneva il naso appena fuori dalle coperte. Ma Crisponzio pensò subito che il padrone di casa, una volta entrato nella stanza, lo avrebbe incolpato del furto di quei grossi prosciutti. Decise così di rivestirsi in fretta per correre fuori e rincorrere i ladri. Appena uscì in strada, vide poco lontani quei due furfanti imboccare sicuri un sentiero e subito gli corse dietro. Dopo un po', uno dei due ladri si voltò e vide il contastorie poco lontano nascondersi dietro un cespuglio. «Ehi, compare! Dietro quel cespuglio! Di là, in fondo, accanto al fiume, c'è un tizio che ci sta seguendo!» «Shh! Scommetto che ci ha visti rubare i prosciutti! Torniamo indietro e stringiamogli il collo prima che possa andare a far la spia!» I due corsero verso Crisponzio. Vedendoli arrivare, il contastorie si voltò rapido e scappò. Il cuore gli impazzava nel petto, ma i ladri erano più veloci di lui, tanto che egli già sentiva il loro respiro sul collo. Ma purtroppo trovò le rapide del fiume nero Pintau, che gli sbarravano la strada. Il contastorie non aveva scampo e subito dovette nascondersi tra la vegetazione che cresceva lungo la sponda. Mentre cercava un posto sicuro, si sentì afferrare le caviglie. Erano le radici di un albero, sequoia. Crisponzio inciampò, perse l'equilibrio, cadde nel fiume e la corrente lo trascinò via. I due ladri lo videro in balia delle rapide e lo seguirono dalla riva sperando che annegasse. Il povero contastorie rischiò più volte di venire inghiottito dal fiume, ma poi riuscì ad aggrapparsi con tutte le sue forze a qualcosa che s'allungava oltre la sponda. Il terrore gli levava il respiro e il cuore batteva ancora più forte da volersene scappare via. Da quel nascondiglio poteva comunque sentire i due ladri che lo braccavano. Crisponzio provò per un momento ad uscire dal fiume, ma i due ladri stavano lì a tirare grosse pietre verso la sua direzione. Perciò dovette restare lì, fermo, con mezzo corpo immerso nell'acqua gelida. Rimase nascosto fino all'alba. Quando non sentì più i due ladri intorno, cercò di tirarsi fuori, ma aveva le gambe quasi del tutto paralizzate dall'acqua gelida. Intanto il crepuscolo del giorno avanzava e mostrò chiaramente a cosa il contastorie si fosse aggrappato. Era qualcosa di umido e vischioso che si muoveva lento e deciso intorno al suo corpo. Poi si sentì stringere forte. Per tutti i sogni di incubo era un grosso anaconda che lo stava attaccando. L'anaconda è un terribile serpente delle paludi, in grado di divorare in un solo boccone un bue intero. Il povero Crisponzio non riusciva più a muoversi e si sentì spacciato. D'improvviso, da una tana vicina, sbucò una nutria bianca, gigante, che è una specie di enorme topo. Il roditore addentò rapido la coda dell'anaconda e strinse forte le fauci. Ovviamente se lo voleva mangiare, ma presto, ahimè, sarebbe toccato anche al povero Crisponzio finire nello stomaco di quella nutria bianca gigante. Il contastorie tentò di chiamare aiuto, aiuto, provò a gridare, ma non ci riusciva perché l'anaconda lo stava soffocando, finché, assalito dalla disperazione d'essere vicino alla fine, il povero Crisponzio emise un grugnito soffocato e con le parole piene di disperazione e rabbia afferrò la punta di uno scoglio roccioso, tirò forte forte e il corpo dell'anaconda si spezzò in due parti. Crisponzio balzò in avanti con tutte le sue forze, andando a sbattere violentemente con la testa contro uno scoglio, e aprì gli occhi e si svegliò. Si accorse, ancora un po' stordito, che stava nella sua camera. Si tastò il corpo e sentì che era ancora intero, ma, stranamente, non era bagnato fradicio, solo inzuppato di sudore. Sgranò del tutto gli occhi e li volse rapidi al soffitto. Niente, nulla stava lassù, né ganci, né prosciutti appesi. Crisponzio sentì alla testa un gran dolore. Doveva aver battuto forte contro il pavimento, cadendo dal letto. E ora stava lì, riverso al suolo, madido di sudore, mentre si aggrappava con entrambe le mani ancora alla coperta. Un sogno. Era stato un sogno. Un bruttissimo sogno. Il contastorie provò ad alzarsi, ma non riusciva a reggersi in piedi. Si riversò sul letto, chiuse gli occhi e s'addormentò di nuovo, esausto. Il mattino dopo si svegliò tardi. Quando fu invitato a colazione, il padrone di casa, l'uomo dai lunghi baffi, si rivolse a Crisponzio per chiedergli notizie. «Avete riposato bene, amico mio? Come state?» Il contastorie, che aveva due grossi cerchi d'ombra intorno agli occhi, riuscì a fare a malapena un sorrisetto di circostanza e poi disse: «Oh, gentile signore, vi ringrazio ancora per avermi offerto alloggio e ristoro. Questa notte è stata davvero faticosa, faticosissima. Ho preso sonno molto tardi. Succede sempre così quando si è troppo stanchi. E per giunta sono stato assalito da brutti, orribili sogni.» «Ma davvero? Mi dispiace, amico mio. E ditemi, posso conoscere questi vostri orribili sogni?» «Oh no, vi prego, signore, senza che abbiate offesa, ma vi prego, vorrei non ricordarli.» «Oh beh, capisco. Sono cose che capitano, caro amico. È per questo che invito sempre i miei ospiti a raccontare qualche storia per la buona notte prima di andare a dormire. Spesso aiuta a liberarsi dalle paure, e così i brutti sogni diventano buoni sogni. Sì, sì, certo, certo. Capisco bene. Certo, grazie. Vi sono comunque grato di tutto, signore. Bene, bene. Caro amico, sono sicuro che la prossima notte rivedrete la vostra isola di dove non si sa. Basta solo saperla cercare. Non credete? Crisponzio assentì con il capo, volgendo gli occhi tristi al tavolo. Sapeva che l'uomo dai lunghi baffi diceva una cosa giusta. Appena volati via questi pensieri, il contastorie risollevò lo sguardo, ma dell'uomo dai lunghi baffi non c'era più traccia. Niente, era svanito. Crisponzio si alzò e si diresse verso l'uscita. Una volta fuori, afferrò la maniglia per richiudere la porta, ma quando l'accostò vide che la casetta non c'era più, niente. Restava solo la porta, il cui batacchio sbattacchiò rumoroso. Dopodiché pure la porta scomparve, ovviamente. Batacchio compreso, ovviamente. Appena rimasto solo, il contastorie Crisponzio risalì in groppa al suo fedelissimo ciucco molente e si avviò verso i campi dello zafferano in fiore di Sant'Uengiu, alla ricerca della sua isola di dove non si sa. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net